Quando noi apriamo il libro della Tefilah la mattina, concludiamo le benedizioni Birkot HaShachar e facciamo le Birkot HaTorah, chiaramente vediamo che ci sono varie Berachot. Prima diciamo Asher Kiddeshanu, Be Mitzvotah, Ve Tzivanu, Al Divrei Torah, e poi Ve Ha'arev, Na, Hashem Elokeinu, Al Divrei Toratcha, eccetera, e concludiamo Baruch HaTashem noten Torah, e poi Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Natanlanu et Torato. Tre Berachot. Secondo la spiegazione di Rabbi Yosef Karo, cioè l'autore dello Shulchan Aruch, le prime due di queste Berachot, che secondo alcune opinioni in realtà sono un insieme di una lunga Berachah, si riferiscono allo studio della Torah Shebe al Peh, la Torah orale, mentre la terza, Asher Bachar Banu, è riferita alla Torah Shebichtav, la Torah scritta. Ed è questo il motivo per cui quando prendiamo una chiamata al Sefer Torah, che è la Torah scritta, diciamo quella di Berachah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. E il motivo per cui, in teoria, l'ordine dovrebbe essere stato l'ordine inverso, cioè prima quello riferito alla Torah scritta e poi quelle Berachot relative alla Torah orale. Ma noi con questo vogliamo proprio invece fare in questo ordine qua perché, proprio per sottolineare che senza l'input che ci dà la Torah Shebe al Peh, che ci dà la Torah orale, non abbiamo la possibilità di affrontare la Torah scritta. Ovvero la Torah scritta è una cosa inspiegabile e non comprensibile per noi se non che ascoltiamo quello che ci racconta la tradizione e ci trasmette appunto la Torah Shebe'al Peh, la Torah orale. Quindi si anticipa la Berachah relativa alla Torah orale rispetto alla Berachah della Torah scritta. Non ricordo se la scorsa volta abbiamo detto che chiaramente la Berachah della Torah si fa solamente una volta al giorno, la mattina, anche se una persona avesse dormito durante la giornata. Comunque, quando si sveglia non deve rifare le brachot della Torah prima di studiare Torah, o quando torna a studiare Torah. Nell'ordine della Tefilah, dopo che si dicono le brachot della Torah, cosa si dice? Subito un pezzo di Torah. La brachah di Kohanim, bravo, e altri pezzi di Torah. E quindi bisogna fare attenzione, visto che quei pezzi di Torah sono direttamente relativi alla Berachah che abbiamo fatto, di Al Divrei Torah, eccetera. Quindi bisogna fare attenzione a non interrompere tra le due parti, tra questi due paragrafi, perché in questa maniera si tiene l'attinenza tra la Berachah della Torah e lo studio della Torah che effettivamente stiamo facendo nel momento in cui recitiamo quella Berachah di Konim e gli altri brani. Ok, ora vediamo l'alakha qui a pagina 253 riguardo la persona che non ha dormito tutta la notte. Può capitare che uno non dorme tutta la notte, se uno si mette con un pezzo di Talmud e poi si gira e vede che è già all'alba. Succede ogni tanto. Allora, Adam shelo halach lishon balaila, una persona che non è andata a dormire di notte, come si comporta riguardo le berachot della mattina che sono relative al risveglio? Allora la halacha dice, yachol levarech birkot hashachar, no? Recita invece le berachot della mattina, le birkot hashachar, solamente che debba fare attenzione ad aspettare effettivamente l'alba. Rak le'achar alot ha'shachar, solamente dopo l'alba. Che ovviamente l'orario dell'alba è un orario che cambia di giorno in giorno e lo si può, stagione, ma anche nella stagione stessa ci sono variazioni proprio di giorno in giorno quasi, e quindi bisogna controllare in quale orario in quel giorno specifico. V'yachol levarech et kol birkot ha'shachar e la berachah. Dice tutte le brachot, come dicevamo, della mattina, però con una eccezione che le Maet, eccetto Birkat al Netilat Yadayim. Non dice la Berakha di al Netilat Yadayim. Fa la Netilat Yadayim, ma senza dire la Berakha. Chi era sveglio tutta la notte. C'è un'usanza di alcuni che evitano anche un'altra berakha che è Hamachazir Neshamot Lifgarim Metim. Il significato di questa berakha è colui che ridà le anime a dei corpi morti, che si parla quindi del sonno e del ritorno dell'anima al risveglio. Secondo alcune usanze si evita anche questa berakha, però l'usanza più diffusa è che non si evita nessuna berakha, alcuna berakha, tranne quella di Al Netilat Yadayim. Ripeto di nuovo, si fa la Netilat Yadayim, ma non si dice la Berakha e si dicono tutte le altre Berakhot. Per questo, per chi era sveglio tutta la notte. Andiamo all'ultimo paragrafo di questa paginetta, che ci riporta un'altra halakha. Hato'e beseder birkot hashachar. Hato'e beseder, se c'è uno che sbaglia il seder, cosa vuol dire seder? L'ordine. Benissimo. E sbaglia l'ordine delle berachot. Ok? Per esempio, Vehikdim beracha al chavertà ha anticipato una beracha ad un'altra, diversamente dell'ordine scritto sul libro di Tefilah. En bekach klum. Non vi è in questo alcun problema. Semplicemente laddove arriva e si ricorda di aver saltato una beracha, la recita. Senza però poi dover ripetere le altre per mantenere l'ordine. Non serve in questo caso mantenere l'ordine. Vivarech ota berachah shedileg. E reciti la persona, quella berachah, che ha saltato. C'è però una eccezione a questa regola che adesso vediamo. Lemaet. Escludiamo da questa regola la seguente situazione. Birkat matir asurim vezokef kefufim. Due berachot, una è matir asurim vuol dire colui che scioglie chi è legato, e zokef kefufim, che rende eretto chi Raddrizza raddrizza chi è piegato, grazie. In questo caso, se la persona ha fatto la seconda berachah prima della prima bracha, cioè l'ordine di queste cose, come funziona quando una persona si sveglia? Cosa fa prima? Prima si sciolgono i nodi, no? E poi si alza in piedi. Se lui invece ha detto Zokef Kefufin e non ha detto ancora quella di sciogliere Matir Asurim, allora non dice più Matir Asurim, perché il Zokef Kefufin, il raddrizzare, il piegato, già include quello che si dice nel Matir Asurim, e quindi sarebbe quasi come una cosa detta senza motivo, invano. E allora, avendo anticipato Zokef Kefufim, raddrizza i piegati, non dice più quell'altra berakha di Matir Asurim, che scioglie coloro che sono legati. Ok? Lo yachazor levarech Matir Asurim. Mipene, poiché, shebichlal zikifata koma, hi hatarata evarim vitnuatam. Chiaro che incluso nel raddrizzarsi del corpo umano, ovviamente comporta questo movimento, comporta anche il sciogliere delle, come si dice, delle articolazioni e dei loro movimenti. Lama yachzor levarech al zeshenit. E non ha senso ripetere di nuovo una berakha per una cosa che già in realtà ha detto. Ok? Ora, siamo? Continuiamo. Che sheit pallel venizkar shelo berech birkot hashachar. Se una persona ha fatto tefilah, poi si è ricordato che non ha fatto le birkot hashachar. Dovete tenere anche presente che in molte usanze la tefilah al Bet HaKnesset inizia dopo le birkot hashachar, che si fa le birkot hashachar a casa. Non fa parte, secondo diversi riti e in tante usanze, che si recita la Birkot HaShachar come a Roma, al Tempio, come parte proprio. Ah sì? Però non è usanza romana questa. No, deve iniziare alle 9:30. Dobbiamo dire al caporabbino. No, si scherza. No, Comunque, certo, adesso cambia però non si va in allora giro, questo è cioè, l'esempio, eh? per far capire proprio la differenza che uno dovrebbe farla a casa, che solo diciamo in maniera propedeutica, non si va in tevah fino a che non cominciare Non si va in tevah, bravo, bravo, non si va in tevah perché per far capire che non a è giusto, giustissimo. Hazak. Però in ogni caso, se uno si è dimenticato, come per esempio se uno va al Beit Michel, non è abituato, e attaccano Hodu o Baruch Sheamar, lui attacca la tefilah, inizia, poi arriva a casa e dice, oh, questa mattina non ho detto le Birkot HaShachar, come fa? Allora l'Halakha dice così, mi sheit pallel, ve lo berech et Birkot HaShachar. Se uno ha pregato e non ha fatto le Birkot HaShachar, alav le omran le achara tefilah. La persona le dica dopo la tefilah. Le maet birkate Elokai Neshama, machazir neshamot efklimitim. Senza includere la berachah di Elokai Neshama che conclude a machazir neshamot lifkarim metim. Perché quando nella tefilah lui ha detto la berachah Baruch Ata Hashem mechaye hametim nella Amidah, si potrebbe considerare che include già la berachah di Hamachazir Neshamot Lifkarim Metim, colui che ridà le anime ai corpi morti, è incluso il concetto nella berachah che ha detto nella Amidah mechaye hametim, che HaKadosh Baruch Hu re dà vita ai morti. E quindi quella berachah non va ripetuta, ma, cioè non va detta. Ma le altre berachot, Birkot HaShachar, se uno non le avesse fatte la mattina, anche se avesse già fatto tefilah, comunque recita le Birkot HaShachar. Dopo mica. Sì, se lui si è ricordato dopo. Lui si ricorda dopo la tefilah, comunque le recita. Ah, se dopo. E se arrivi Se si è mentre, cosa le vuoi ricordato dire mentre? Perché. Anche mentre la tefilah aspetta fino a dopo, perché Capito. dipende dove sta. Se sta Se prima di Baruch Shamar, le recita subito. Ma Quindi se già se ha fatto, ha iniziato Baruch Shamar, allora aspetta dopo l'Amidah, e dopo l'Amidah fa le Birkot HaShachar. questo è il caso che uno si dimentica, Sì. ma se si arriva tardi Quello che volevo e non c'è dire la io. Allora, vedremo più avanti le halachot di arrivare tardi, però è chiaro che le halachot di arrivare tardi e saltare alcuni pezzi della tefilah per unirsi al Minyan non sono relative alle Birkot HaShachar. Sono relative a dopo le Birkot HaShachar in poi, ma le Birkot HaShachar vanno comunque fatte, anche chi arriva tardi va a fare le Birkot HaShachar e in particolare sì, le Birkot HaShachar e le Birkot HaTorah, chiaramente. Vabbè, allora quindi praticamente se evita qualsiasi problema quando uno arriva tardi al tempio, come farlo a casa? Se uno sa di arrivare al tardi al tempio, certo è meglio dire le Birkot Sì, in HaShachar a modo che casa, poi quando arriva al tempio sicuramente. si rimette a Prima riparo. devi fare le Birkot HaShachar e poi ti unisci. E poi ti unisci e ci sono delle regole specifiche che vedremo in un altro Ha fatto già capitolo pure. di come ci si Come unisce al Minyan. sono su 2 minuti? Ha fatto Ci sono degli schemi. Ci ha fatto vedere tuo figlio. Ah sì, eh? Sì, Ma che bellissimo. notizia, allora mi Quella anticipa. tabella a No, secondo quella tabella è un'altra di. cosa. Per Quella tabella è l'interruzione. per le interruzioni, vuol dire a seconda di dove ti trovi tu nella Sono un po' indietro tefilah, a me. se ti è Ah, scusa, permesso allora quello. rispondere Amen o Amen Yesh Merabah o Barehu. Questo è lo schema che è dietro Ah, quel libro blu, no? forse sì, c'è una Sì, tabella lì sì, con sì, sì. doppia entrata La lì. tabella ti spiega se tu stai, per esempio, a Baruch Shamar Sì, e loro stanno a è Sefer e aspettato, dicono sì. Baruch, tu rispondi Baruch Hashem Vorach Lamved o meno? Ok, O dicono Kaddish, tu quello. rispondi? Sarà Questa è quello. un'altra cosa. Invece questo è un altro tema che è quando tu entri al tempio e già stanno pregando, quali pezzi è permesso saltare per unirti al, sì, Ah, al sì. Minyan? E questo è un altro capitolo dello Shulchan Aruch, quello là. Comunque, torniamo al nostro caso. La persona cosa ha fatto? Ha dimenticato di dire le Birkot la mattina. Allora abbiamo detto che le fa dopo la tefilah, eccezione di Elokai Neshama, quel brano Elokai Neshama che conclude Amachazir Neshamot Lifkarimetim. C'è un'altra eccezione. Vehen lemaet Birkot HaTorah. Inoltre non recita le Berachot della Torah. Perché? Come può essere? Allora l'Alaha dice, Mipene sheyeshna dea, poiché c'è una opinione alla quale ci si appoggia in questo caso qui, Hasoveret che sostiene, sheyatza bi berachot elu, che yatza che esce l'obbligo di queste berachot, cioè quelle della Torah, bebirkat ahavat olam, La Berakha che precede lo Shema, in cui si dice Avat Olam Avtanu, eccetera, lì si parla anche del dono della Torah, Veten bilibenu l'ilmodu, l'elamed, l'ishmor, l'ansotu, eccetera. E per evitare di eventualmente ripetere uno stesso concetto in due Berakhot, allora si considera che si è usciti d'obbligo della Berakha della Torah in questa Berakha e non la si recita dopo la tefilah, nel caso in cui ci si è dimenticati di fare le brachot prima della tefilah. Ok? Quindi chi si dimentica di fare le brachot? A Shachar, le benedizioni mattutine, prima della tefilah, e si accorge, se ne ricorda dopo la tefilah, le recita con queste due eccezioni, la berachah di Elokai Neshama e le brachot della Torah. E se invece capita di lunedì e giovedì che esce il Sefer e non è detto le Berakhot della Torah, però poi quando vai al Sefer tu rispondi Amen, quello non c'entra niente. Anche che ce n'è una sola, però poi tu dici. La Harima è uguale Però come nel abbiamo detto qua, il fatto che esce Sefer manca non. una luce. Cioè, forse tu puoi avere in mente, mentre la persona dice la Bracha, c'è il Bacharbanu, di uscire l'obbligo Dei anche riferimenti. per la Bracha della Torah. Sì, forse ci può stare, diciamo, in linea di massima, in linea, diciamo, eccezionale. Però bisognerebbe anche che la persona che fa la bracha tenga in mente di farti uscire questo obbligo, Ah, certo. perché funziona in entrambe le direzioni. Non lo so che tu magari non mi hai detto, Esatto. quindi. Della cosa Dimmi. della Torah. Sì. Vanno dette prima, anche se uno, prima di far tefillah, no? E presto, uno vuole, magari, intanto leggo un commento, uno deve aver già detto la cosa anche in quel caso, perché comunque è Torah anche quella, anche se legge commenti, impara qualcosa, insomma, non è Allora, tefillah. la cosa ideale da fare in quella situazione sarebbe di fare tutte le brachot prima, incluso le brachot della Torah. Proprio Quindi prima dell'ora le della brachot della tefilà mattina. non si può, insomma, Non io si può? No, pensavo magari, ecco, leggere un commento no, no. oppure. Non ho detto che non si può studiare Torah prima della tefilà. Ho detto un'altra cosa, che nel caso una persona volesse occuparsi di Sì, qualcosa prima deve aver detto questo. della tefilà, che sia studiare Torah, ma in realtà anche se dovesse fare qualche altra cosa, è meglio che dica le Birkot HaShachar. No, la mia domanda era se fosse prima dell'orario del Birkot HaShachar. Quindi prima dell'orario del Birkot HaShachar, se uno fa il conto, ho Ah! premesso, se uno fa il Infatti conto è avevo presto, non avevo capito che è era prima del. particolarmente presto. Quindi stai No, dicendo nessuno prima pensa a quello. dell'alba? Aspetto No, l'ora, io infatti intanto pensavo quelli che si alzano la notte per studiare, commento. no? Sono qua dall'alba. E Dopo mezzanotte. a posto. Sì, Io quello quindi rientra sì. nell'orario notturno, È dove legato al quindi sono sonno. coperto dal Perché radio, è l'altro. come se non hai finito. Ah, Se sono sei coperto da basso, quelle della sei mattina, prima come qualcosa se ti non. riguarda l'orario. Esatto. No, ma Come. odermi. No, Sennò ti che alzi anche ti prima. alzi alle 2 di notte Sì, c'è chi lo fa tutto. però rientra finché non c'è il sole che esce, rientra per un giorno precedente. No, no, no, Il no. caso è il Se ha seguente, uno ha dormito, dormito comunque, quindi il sonno la fa. sì. Un po' presto, prima dell'alba, e pensa, vabbè, non posso dire che la cosa sciacca, ma posso intanto magari muovermi in tema di Torah, anche se. Comunque la devi fare solo se dopo che Allora, c'è. credo che se uno ha dormito e si sveglia, le fa le Birkot HaShachar, Va anche bene, se è e buio. quindi. Anche se è buio. E le Birkot HaTorah. Non recita lo Shema. C'è anche chi recita lo Shema prima della tefilah. Però lo Shema ancora non è orario. I tefilin ancora non è orario. No, Tefilah ancora non è orario. certo. Però Birkot HaShachar le recita. E dice. Fino a prima di Baruch Shamayim. Birkot HaTorah, fino al Anche se Birkot. ancora prima dell'orario. Sì, Ah, non lo so. anche se prima. E in questa maniera io credevo che la domanda fosse un'altra, ovvero se è permesso pensare di Divrei Torah senza pronunciarle, le parole della Torah, prima di dire le No, Berachot della è Torah. nata così la domanda. Adesso è Cosa. emerso che potrei dire in alba Sì. anche se è buio, ok. Sì, Però se le ho dette, allora poi a quel però punto la, legge se quello l'hai di detto, prima. però la domanda rimane una Certo, domanda, no? sì. Quindi cos'era la risposta? Di sì, si poteva soltanto pensare senza recitare. Esatto, che pensare senza recitare si può. Un'altra situazione sarebbe se una persona non ha fatto in tempo a fare la Nitilati Adaim la mattina e sente un Kaddish o una Kedusha, deve rispondere o non deve rispondere? Allora c'è scritto che deve rispondere. Ed è una mitzvah rispondere. E si appoggia a certe opinioni tra i Rishonim, che sono dell'opinione che le Birkot HaShachar, secondo alcune opinioni, le Birkot HaShachar in origine si dicevano prima della Nitilat Yadayim. La Nitilat Yadayim seguiva le Birkot HaShachar. Anche se l'alakha non è stata fissata così, in un caso di questo tipo, in cui una persona non ha fatto in tempo a fare il tatedaim e sente una cosa di kedusha a cui bisognerebbe rispondere, è obbligato a rispondere anche senza aver fatto il tatedaim. Quindi kaddish o amen di una berakha, e non bisogna essere rigorosi e dire no, io sono più rigoroso, non rispondo finché non faccio il tatedaim. Questo è un esempio di un comportamento rigoroso che in realtà porta a un comportamento sbagliato o diciamo l'opposto di rigoroso, facilitante. No? A volte uno pensa, e ci sono tanti esempi nell'Alakha, in molti ambiti alachici di questa cosa, ma questo può essere un esempio per noi oggi, nel senso che a volte uno pensa, per non sbagliare faccio la cosa più rigorosa, per essere sicuro, oppure anche non per non sbagliare, per un altro motivo vorrei essere più rigoroso, prendo la strada più rigorosa. A volte l'Alakha ti dice non devi prendere, non puoi prendere la strada più rigorosa, perché alcuni tipi di comportamenti rigorosi possono risultare poi in un mancato rispetto della mitzvah. Non mancato rispetto nel senso mancare di rispetto, proprio il non fare la mitzvah. Allora, dove la Halakha ci insegna, questa è una regola generale, dove la Halakha ci insegna che non bisogna essere rigorosi, in quei casi non è considerato lodevole essere rigorosi. Quando invece la Halakha dice che il comportamento dovrebbe essere il seguente, mentre chi vuole essere rigoroso sia lodato, in quel caso si può applicare anche alla rigorosità. Ma in altri casi invece, ovviamente ogni caso va visto a sé, laddove c'è la possibilità che dal rigore esce fuori una cosa contraria, allora bisogna non essere rigorosi. Lo Shema, riguardo la lettura dello Shema, è scritto sulla Torah: Vedi Barta Bam, Beshivtecha Bevetecha, Ulechtecha Vaderech, Uveshoch Becha Uvekumecha, quando ti corichi e quando ti alzi. No? Il senso di quando ti corichi e quando ti alzi è un senso di orario. Qual è il tempo in cui c'è l'obbligo di recitare lo Shema, è il tempo in cui si va normalmente a dormire e il tempo in cui si va normalmente a risvegliarsi. E i Chachamim hanno indicato che questo orario dello Shema, la mattina, questo orario dello Shema la mattina, qual è il limite del tempo in cui ci si alza e oltre quel tempo non c'è più la mitzvah di dire lo Shema, quindi bisogna recitare lo Shema entro quel tempo, che sono 3 ore solari dall'alba, da quando il sole sorge. Come si calcolano queste ore solari, David? Si calcolano le ore di luce, cioè dipende dall'alba al tramonto e le diviso per 12. Esattamente. Quindi adesso che è inverno, un'ora, Shaot Zemaniot, si chiamano nell'Alakha, queste ore solari, sono meno di 60 minuti. E nelle giornate più lunghe, estive, sono più di 60 minuti chiaramente. Allora, per questo abbiamo i lunari che ci indicano e le app che ci indicano gli orari, e uno è bene tenersi, se uno non fa la tefilà in un orario la mattina fissa, sa che rientro o non rientro nell'orario del recitare lo Shema. Il calendario lunare, poi abbiamo il calendario lunare e solare mischiato, va, Vero? è complicata la cosa. Sì. È vero? È complicato, e quindi ci molto. sono molti strumenti che abbiamo a nostra disposizione che ci dicono direttamente l'orario senza fare troppe Chi complicazioni. ne fa questo qua? Questi calcoli? Chi si occupa Perché di matematica? Non io. Questo è pure il quando motivo prendi perché quando è l'astronomia, inverno riusciamo a fare quando pure prendi il lunare, ti Minchà subito dicono dopo. l'orario di Esattamente, perché Minchà, Minchà è già orario di Minchà Gdolà, il primo orario di esatto, Minchà già rientriamo abbastanza presto. Ok, grazie. giriamo la pagina 257. Cosa succede se uno fa la tefilà dopo che però il tempo della lettura dello Shema è già scaduto? Allora, bisogna capire che l'orario di tefilà, e vedremo più avanti quali sono esattamente questi orari, l'orario di limite di tefilà la mattina è più lungo rispetto all'orario limite dello Shema. Allora potrebbe capitare che uno fa tefilà in un momento in cui lo Shema già doveva essere recitato. Allora, per quanto riguarda lo Shema, potrebbe averlo recitato solo a sé stante prima della tefilà per entrare nell'orario. Però poi fa tefilà ed è già dopo orario di lettura dello Shema. Come si comporta riguardo alla lettura dello Shema di nuovo all'interno della tefilà, nello schema normale della tefilà? Come il sabato. Noi da noi il sabato Iniziamo tardi. Esatto. Allora vediamo cosa dice l'Alaha. Amitpallele achar zman kriyat Shema. Il termine zeman kriyat Shema è quello che indica l'orario della lettura dello Shema. Allora, chi prega dopo l'orario della lettura dello Shema? Ad orario scaduto? Alav likroit kriyat Shema, lui deve comunque, se sa che farà la tefilà dopo quell'orario, dovrà leggere lo Shema, le lo birkotea, senza le benedizioni dello Shema, cioè Yotzer, Avat Olam, prima e le brachot che seguono. Lifne sof zman kriyat Shema, prima di tutto deve, come dicevamo, assicurarsi di leggere i tre brani dello Shema prima di fare tefilà, prima che rientra, cioè che rientrasse, che potesse rientrare nel tempo della lettura dello Shema. E ve'alav likro et sheloshet ha-parashiyot, appunto tutti e tre i brani, kollel parashat tzitzit, incluso anche l'ultimo, cioè parashat tzitzit vayomer, afal pi she'eino chelek mi-mitzvat kriyat Shema, anche se ha uno status diverso nella mitzvah dello Shema rispetto agli altri due brani, che sono quelli considerati centrali della lettura dello Shema, comunque recita anche il terzo brano. Esatto, nella Gemara. Kevan shebazem mekayem gamet mitzvah zechirat yetziat Mitzrayim bizman kriyat Shema. Cioè, leggendo, recitando il terzo brano, quello relativo ai tzitzit e all'uscita dall'Egitto, si adempia la mitzvah di ricordare l'uscita dell'Egitto, Zecher Yetziat Mitzrayim, il ricordo dell'uscita dall'Egitto, anche quello nell'orario abbinato alla lettura dello Shema. Quindi rientra tutto insieme. Riguardo invece la ripetizione delle parole alla fine dello Shema, perché c'è l'idea, che poi vedremo più avanti anche più in dettaglio, di rientrare nelle 248 parole, cioè che i 248 mitzvot positive sono 245 parole nello Shema, ed è per questo motivo che si ripete alla fine dello Shema Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem, e si aggiunge la parola Emet del brano successivo per rientrare in questo numero di parole. Però ci sono diverse usanze sulla situazione in cui si prega senza Minyan, che nella tefilà romana è indicato che prima di iniziare lo Shema si aggiungono tre parole, che è il Melech Ne'eman, e per rientrare così. Invece in altre usanze si ripete comunque alla fine anche senza Minyan, quindi ognuno secondo la propria usanza. Ok? Allora, concludiamo qui questa lezione di Alakha di oggi. Quindi se io non...